Tra poco Fergal con Southside. Ciao Fergal. Oi, ciao Alex e Raul, ma veramente pensavo che fosse già in onda, perché Depeche Mode Dream On è una che passiamo noi on Southside. È vero, te l'abbiamo rubata, capito? E invece tu passerai tra un po' in Southside un nuovo grande successo di Lena Biolcati. Non è vero. Bravissimo. Oh, sì, davvero. Ma non è vero. Ciao a tutti, adesso c'è la Rita D'Ambrosio con le news. Ciao. Ciao domani. Ragazzi, a domani. Dopo il notiziario. Southside. Prossime news alle 19. Southside. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. You're very welcome to Southside. Questo giovedì pomeriggio c'è Roberto Bottone al controllo e iniziamo subito con un bellissimo brano, un po' di polemica per Bruce Springsteen, per questo che parlo del portoricano Amado Diallo sparato dal New York Police. This is 41 Shots on Southside. 41 shots and we'll take that ride across this bloody river. Cut through the night, you're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. 18 per un'ora. Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Southside. Southside. Here we go. Concerto a Modena e stasera si trova a Milano a fare una replica di quel data e speriamo che andrà proprio bene. Chissà, forse Dido mi sta ascoltando proprio in questo momento e se questo è il caso, good luck tonight in concert, Dido. Lei intanto andrà in America a giugno a fare un concerto, a fare un giro, e come support ci sarà il gruppo scozzese Travis, grande gruppo pure loro. Allora, musica irlandese adesso, per dire, al gruppo irlandese The Divine Comedy. Questo viene dal loro album Regeneration. This is Bad Ambassador. Still one sit real, still one sleep like the dead on a bed of roses. Me and my lovely wife, we're in the prime of life. I wanna feel real, wanna freewheel, wanna steal the show from under their noses. I wanna get you off, well ain't that enough? I'm gonna have to sail down my ivory tower by myself to drag you off. Big boy.

When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. This goes out to all the DJs. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. This goes out to all the DJs making moves, yeah, on the dance floor. Gotta be bold, dancing, yeah, real hardcore. From the front to the back, that's where I was at. You know, the apple tried to do it like that. With Craig David all over your DJ, it's all up to you. Sei Paul Selecta, bellissimo risentire questo pezzo, ci ricorda tutti quanti in discoteca a ballarci questo. That's Artful Dodger, il pezzo infatti che ha lanciato Craig David sulle scene internazionali. Rewind il pezzo, e Craig David infatti ha avuto tanto successo, diciamo, dopo questo brano. Eppure i Spice Girls hanno chiesto a Artful Dodger di lavorare con loro, però loro hanno deciso, Artful Dodger hanno deciso di no. Però Artful Dodger hanno detto che gli piacciono molto The Architects, ed eccoli qua with Show Me The Money. They all like the things that I do, how I handle you. to a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Non vi dico che stiamo combinando io e Roberto Bottone in studio qua, stiamo tutti a ballare un po' mamboesco. Questo è The Mambo Craze, loro sono The Fuzz. Bello proprio, sembra proprio essere dentro un lounge a pigliare un bel cocktail tutti insieme now. Comunque loro sono tedeschi, vengono dalla Germania e infatti se voi vi trovate nei pressi di Bochum stasera potete andare a trovarli in concerto. E a proposito del 19 aprile, che è successo in questi giorni nella storia della musica? Allora torniamo indietro e vediamo il giorno, cioè 1978, Patti Smith ha fatto uscire Because the Night, scritto da Bruce Springsteen, sua unica vero hit. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Network. Here we are again. I don't wanna see reality. All I want is getting fucked up and see our blood. It's not the first time I feel this way since I gotta come through without you. Il video per questo pezzo, il presentatore l'ha fatto a pezzi proprio, però noi a Southside, a noi piace moltissimo. Questo è Reality di Raso Hara e lui viene dalla Germania. Wow, tanti tedeschi oggi in programmazione. Comunque, allora, è arrivato un messaggio e adesso potete dire in diretta il titolo della canzone che state trasmettendo? Allora, questo è Reality di Raso Hara e se riferisci a quello che abbiamo suonato prima era Because the Night from Patti Smith. Yes, the best music every day dalle 18 alle 19 on Southside with Fergal on voce and Roberto on controls. La Micra Glamour, deliziosa, è un piacere guidarla, così trend negli interni, così in vista nei colori, così contenuta nei consumi. La Micra Glamour è una sensazione da provare a lungo e da oggi su tutte le micre il climatizzatore è incluso nel prezzo, se non avete un'auto da rottamare. Ma se il fresco non vi interessa e volete rottamare la vostra vecchia auto, la Micra è vostra, tenetevi forte da 16.200.000 lire. Che interni, che colori, che fresco, nuova Micra Glamour, chiedi a chi una Micra ce l'ha già. Allora, una grande gruppo inglese, sono di Ocean Color Scene, hanno avuto molto successo nella loro territoria nazionale, speriamo che la possano replicare anche in Italia. Questo viene dall'album Mechanical Wonder e si intitola Up on the Downside. KISS Network. Southside. The loudest. The most powerful. The one that'll be left alone to weep. Cause this day I found my friend is inside my own mind and soul to keep. And this spirit is letting go and letting the people know that this ain't the time and this ain't the place to test me. This ain't the face to judge, don't stress me. This is the place, this is the time. My enterprise and this my rhyme. Capitano niente tranne il fonico. C'è Roberto Bottone davanti a me qua che sta dicendo che bel disco questo, molto house. Lui è un house DJ pure, perciò dovrebbe capirlo. Io non sono un grande fan del house, però devo dire mi piace tantissimo questo pezzo. Sono The Stereo MCs and Deep Down and Dirty. Piccola pubblicità per noi on Southside. Spot time. Tesoro, ti piace il mio regalo? Oh, beh, sì. Oh, scusami. Sì? Tutto ciò che posso offrirti è questo. Quello che abbiamo ora, solo questo. Autumn in New York. Richard Gere, Winona Ryder nella più romantica storia d'amore dell'anno. Oggi a noleggio da Blockbuster. Porta a casa l'emozione del grande cinema. Ma è bellissimo! When the night... Blockbuster. Sempre più film, sempre più copie. Make it a Blockbuster night. Kiss, kiss. La squadra verde alla mia destra, quella rossa alla mia, la mia, porta tutti insieme, sinistra! Al mio via i numeri 2, 6, 20 e 53 fanno un giro su se stessi, prendono la bandiera e la sventolano! Se non hai il coraggio di chiudergli la bocca, mandagli un messaggio. Blu ti regala 50 sms al mese, non cumulabili per i mesi di maggio, giugno e luglio, se ricarichi la tua SIM Blu On dal 10 al 30 aprile. Osa di più, scrivi! Pronti? Via! Blu, il futuro che non c'era. Kiss, kiss. Sono la boy band del momento e sono tutti nudi. I Velvet, come non li hai mai visti? Li trovi solo su Kiss Me di aprile. Inoltre, le migliori tecniche di bacio e il test del sesso. Corri in edicola. Kiss Me ti aspetta. Puoi vincere anche i biglietti per il concerto di Dido. Kiss, kiss. Come dire a tua sorella che oggi tocca a te usare la 106? O glielo spieghi con le buone? Ti prego, sorellina. O con le cattive? Ti incendio il guardaroba, dico a tutti che è il reggiseno imbottito, pubblico il tuo diario, ti seguo tutti i tacchi delle scarpe. Peugeot 106 con airbag conducente, vetri elettrici, chiusura centralizzata, tua da 14.950.000. Non è il caso che te la compri? Sorellina, dai. Peugeot 106, perché sei come sei. È un'offerta della rete Peugeot valida fino al 31 maggio 2001 con usato da rottamare. Vuoi una lente a contatto nuova ogni giorno? Focus Dailies, le lenti a contatto giornaliere confortevoli e pratiche senza liquidi per la disinfezione e a un prezzo conveniente. Provale dal tuo ottico. Focus Dailies, praticità e comfort. È un dispositivo medico, autorizzazione alla pubblicità P970. English number one. Impara l'inglese con Microsoft Encarta Interactive English Learning, il corso più pratico, interattivo, personalizzato su CD-ROM per parlare inglese fin dal primo giorno. Panorama number one. In esclusiva con Panorama in edicola il primo CD-ROM di Interactive English. You number one. Con Microsoft e Panorama. Southside. Proprio progresso questo gruppo, loro sono The Orbital, bello questo pezzo, e praticamente sono due fratelli che registrano insieme dal 1987 e in quell'anno hanno pur registrato un pezzo che li ha poi portato a made them famous and all over the world praticamente, e gli ha costato solo meno di 10.000 lire a registrarlo. E poi un altro gruppo che suoniamo adesso in Southside sono i JJ72, vengono da Dublino, il batterista si chiama Fergal come me, questo è Snow. 18. Per un'ora Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Southside. Southside, here we go. Deve essere intitolato Jeep, cioè J-E-E-P, però la macchina Jeep, cioè Daimler Chrysler tedesco, hanno detto no, non lo potete fare perché quello è nuovo nostro, nome nostro. Però l'ironia è che Jeep è infatti una frase dal militare inglese, sembra, e quindi non c'entra proprio niente. Ecco The Orb from their new album Cydonia, this is Once More. Thank you. pezzo si intitola Once More, è proprio bello, That's the Orb. Questo viene dal loro ultimo album Cydonia e ci sono delle voci che dicono che questo potrebbe essere proprio il loro ultimo album, ma saremo a vedere. Comunque mi ha appena raggiunto le notizie che quelli che si sono sciolti, ci sono delle gruppe, c'è un gruppo in particolare che si è sciolto, sto parlando degli Skunk Anansie. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale e infatti il primo album solista di Skin dovrebbe essere pronto per i primi mesi del 2002 e quindi speriamo che sia bello. Ci dispiace che Skunk Anansie se ne vanno, comunque pure io me ne vado, però non vi preoccupate, torno domani alle ore 18. Grazie a Roberto Bottone per la regia, grazie a voi carissimi ascoltatori per avermi seguito. Questo è Fergo Capra, a domani. Southside per un'ora Fergo ti proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, ancora un appuntamento con l'informazione. News.